Non siamo soli in questa stanza che non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti. C'è anche un corpo che spurga brina e ricordo melmoso. L'abbiamo circondato di pupazzetti e matite colorate, come se fosse un figlio, un desiderio inespresso. Con la bocca così, sembra un insetto, una di quelle cavallette grandi e gonfie che puzzano di umido quando muoiono. C'è ancora un eco, un imbombo tremolante della voce che dice no. E alzi piano la maglietta per vedere tutto che si rigidisce un po'. C'è qualcosa che macchia le scarpe, sul torace, scrivi con il pennarello, troia. Ti ha sempre trattato così, non è vero? Come un oggetto o un sacco di sperma? Stupida troia, prima di chiudere gli occhi, stupida troia anche quando sono. Ora sta lì e non puzza ancora, ma qualcosa di umido dei pantaloni. Scatti e spasmi o poco più. Ricorda, ricorda, ogni giorno è il giorno del papà. Poi chiudiamo le finestre, rigidiamo quello scorcio e un ricordo sincero. Qualcosa si sta gonfiando come un pettino rosso. Le formiche stanno salendo in processione dal giardino fino alla stanza in cui dormo, circondato da pupazzi e pennarelli. Chiudiamo anche l'ultima finestra, la sigilliamo per non far entrare le formiche. E infine del giardino, che ti seguo fino alla cucina. Abbiamo tutto, sentiamo il gas fuoriuscire, camminare, usciamo, ci dirigiamo alla macchina. E tu non pensi più alle parole stupide a te, ma pensi a rinascita e grande esplosione.